Capitolo 8. Comincia l'educazione di Anna. Per ragioni che solo lei conosceva, Marilla non disse ad Anna che sarebbe rimasta a Green Gables fino al pomeriggio seguente. Per tutto il giorno tenne la bambina impegnata con varie incombenze e la osservò con occhio acuto mentre eseguiva ogni ordine. A mezzogiorno aveva concluso che Anna era sveglia, ubbidiente, volonterosa nel lavoro e svelta ad imparare. La sua peggiore mancanza sembrava essere una tendenza a lasciarsi prendere da un qualche sogno a occhi aperti nel bel mezzo di un'attività e dimenticarsi di tutto, finché non veniva ripresa e bruscamente riportata sulla terra da un rimprovero o da una qualche catastrofe. Quando Anna ebbe finito di lavare i piatti, andò a mettersi davanti a Marilla con l'espressione disperata di chi è determinato ad affrontare il peggio. Il suo corpicino sottile tremava dalla testa ai piedi, la faccia era arrossata, le pupille dilatate, fino a far sembrare l'iride nera. Stringendo le mani, la bambina disse in tono implorante: «Per favore, signorina Cuthbert, potrebbe dirmi se avete deciso di mandarmi via oppure no? È tutta la mattina che mi sforzo di portare pazienza, ma adesso non ce la faccio proprio più a resistere senza saperlo. È una sensazione orribile, la prego, me lo dica». «Non hai sciacquato la spugnetta per i piatti in acqua calda pulita, come ti avevo raccomandato», ribatté Marilla irremovibile. «Finisci di fare quello che devi prima di porre altre domande, Anna». La bambina ubbidì. Andò a sistemare la spugnetta, poi tornò da Marilla e le inchiodò due occhioni supplichevoli dritto in faccia. «Beh», disse la donna, che non riusciva più a trovare nessuna scusa per rimandare ulteriormente la spiegazione, «immagino di potertelo anche dire a questo punto. Matthew ed io abbiamo deciso di tenerti con noi. Certo, a patto che tu ti sforzi di fare sempre la brava e ti dimostri grata di ciò che riceverai. Ma cosa c'è, piccola? Che cos'hai?» «Piango», rispose Anna sgomenta, «e non so perché. Sono contenta quanto si può essere umanamente contenti. No, contenta non è affatto la parola giusta. Sono stata contenta quando ho visto la bianca via della delizia e i ciliegi in fiore, ma questa, oh, è molto più che contentezza. Sono così felice. Cercherò di essere altrettanto brava. Sarà molto difficile riuscirci perché sarà un lavoro in salita. La signora Thomas me lo diceva spesso che ero cattiva e incorreggibile, però farò del mio meglio. Ma saprebbe dirmi perché sto piangendo?» «Immagino che sia perché sei molto emozionata e agitata», rispose Marilla con aria di disapprovazione. «Adesso siediti su quella sedia e cerca di calmarti. Ho paura che tu pianga e rida con troppa, troppa facilità. Sì, puoi restare qui e noi cercheremo di crescerti nel modo migliore possibile. Dovrai andare a scuola, ma mancano solo un paio di settimane alle vacanze estive, quindi non vale la pena di cominciare adesso. Meglio aspettare che riapra a settembre». «Come devo chiamarla?» chiese Anna. «Devo sempre dire signorina Cuthbert? O non potrei chiamarla zia Marilla?» «No, dammi del tu e chiamami Marilla e basta. Non sono abituata a sentirmi definire signorina Cuthbert e mi faresti venire il nervoso». «Ma mi sembra terribilmente irrispettoso chiamarti solo Marilla», protestò Anna. «Non ci trovo proprio niente di irrispettoso se stai attenta a dirlo sempre con rispetto. Qui ad Avonlea tutti, giovani e vecchi, mi chiamano semplicemente Marilla. Tutti tranne il pastore che mi chiama signorina Cuthbert, quando se ne ricorda». «A me però piacerebbe tanto chiamarti zia Marilla», insiste Anna con aria triste. «Non ho mai avuto una zia, né altri parenti, nemmeno una nonna. Così avrei la sensazione di far parte della famiglia. Non posso proprio chiamarti zia?» «No, non sono tua zia e non mi piace dare nomi diversi alla gente. Ma potremmo immaginare che sei mia zia, no?» «Io no», ribatté la donna severa. «Non immagini mai che le cose siano diverse da quelle che sono in realtà?» le chiese Anna, sgranando gli occhi. «No, no. Oh!» Fece Anna un respiro profondo. «Oh, signorina Marilla, non sai cosa ti perdi». «Non mi piace immaginare le cose diverse da come sono», replicò lei. «Se il Signore ci mette in certe situazioni, di sicuro non è per farcele immaginare in un altro modo. A proposito, Anna, vai in soggiorno. Mi raccomando, controlla di avere le scarpe pulite e attenta a non far entrare le mosche. Sì, e portami la cartolina che c'è sulla mensola del camino. C'è scritto il Padre nostro e questo pomeriggio dedicherai il tuo tempo libero a impararlo a memoria. Non voglio più sentire preghiere come quella di ieri sera. Sì, credo di essere stata indelicata, disse Anna in tono di scusa, ma il fatto è che non sono abituata a pregare. Non puoi aspettarti che una sia capace di pregare bene al primo tentativo, ti pare? Quando sono andata a letto ho pensato una bellissima preghiera, come ti avevo promesso, lunga quasi quanto quelle del pastore e altrettanto poetica, però è una cosa incredibile. Stamattina, quando mi sono svegliata, non ricordavo più nemmeno una parola. E ho paura che non riuscirò più a pensarne un'altra così bella. Non so come mai, ma le cose non vengono mai bene come la prima volta. Ci hai mai fatto caso? Senti, Anna, te la dico io una cosa che non devi dimenticare. Quando ti chiedo di fare qualcosa, voglio che tu mi ubbidisca subito, senza startene lì impalata a cincischiare. Adesso va e fa come ti ho detto. Anna andò subito in soggiorno, che si apriva dalla parte opposta dell'ingresso, ma non tornò più. Dopo una decina di minuti, Marilla posò il suo lavoro a maglie e andò a cercarla, scura in volto. Trovò la bambina immobile, di fronte al quadro appeso alla parete tra le due finestre, con le mani strette dietro la schiena, il viso alzato e gli occhi persi in chissà quale sogno. La luce bianca e verde che filtrava tra i rami dei meli e i rampicanti aggrovigliati all'esterno cadeva sulla figuretta dall'aria rapita con un fulgore quasi innaturale. Anna, ma a cosa stai pensando? Chiese brusca Marilla. La bambina tornò in sé con un soprassalto. A quello, rispose indicando il quadro, una litografia dai colori piuttosto vivaci, dal titolo Cristo benedice i bambini. Mi stavo immaginando di essere una di loro, quella bambina con il vestito blu che se ne sta in un angolo per conto suo, come se non appartenesse a nessuno, proprio come me. Sembra sola e triste, non credi? Scommetto che non ha né un padre né una madre, però vuole essere benedetta anche lei, perciò si è fatta largo, timidamente tra la folla, sperando che nessuno se ne accorga, a parte lui. Io capisco benissimo come deve sentirsi. Il cuore le batte forte e deve avere le mani gelate come le mie quando ti ho chiesto se potevo vivere qui. Lei ha paura che lui non la noti, invece è molto probabile che l'abbia vista subito, ti pare? Ho provato a inventarmi il finale della storia, con lei che si avvicina poco a poco fino a essergli quasi accanto e lui la guarda, le mette una mano sulla testa e... Oh, che gioia deve aver provato la bambina! Però avrei preferito che il pittore non avesse dipinto Cristo con quella faccia cupa, piena di dolore. Anche se tutti i suoi ritratti sono così, ci hai fatto caso? Ma secondo me Gesù non aveva davvero quell'aria malinconica, altrimenti i bambini avrebbero avuto paura di lui, no? Anna, le disse Marilla, chiedendosi perché non avesse interrotto quel discorso un bel pezzo prima, non dovresti parlare così. È irrispettoso. Molto. Gli occhi della bambina si riempirono di stupore. Oh, io mi sentivo così rispettosa. Non intendevo affatto mancare di rispetto, sul serio. Non sto dicendo che l'hai fatto apposta, ma ritengo che di certi argomenti non sia il caso di parlare con tanta leggerezza. Un'altra cosa, Anna, quando ti mando a prendere una cosa, devi portarmela subito, senza perderti in fantasticherie davanti a qualche quadro. Cerca di ricordartelo. Avanti. Prendi la cartolina e torniamo in cucina. Adesso mettiti lì nell'angolo e impara la preghiera a memoria. Anna appoggiò la cartolina contro il vasetto di fiori di melo che aveva raccolto per decorare la tavola per il pranzo, cosa per cui Marilla le aveva lanciato un'occhiataccia, anche se non aveva aperto bocca. Poi posò il mento sulle mani e la studiò con attenzione e in silenzio per parecchi minuti. Questa preghiera mi piace, esclamò poi. È proprio bella. Mi è già capitato di sentirla, la diceva il direttore di catechismo all'orfanotrofio, però non mi era piaciuta quella volta. Lui aveva la voce stridula, brutta, e la recitava con un tono così triste e cupo. Dava, la sensazione che pregare gli pesasse o gli desse fastidio. Questa non è una poesia, ma quando la recito mi sembra che lo sia. Padre nostro, che sei nei cieli. ricorda quasi la strofa di una canzone. Sono contenta che tu abbia deciso di farmela imparare, signorina, voglio dire Marilla. Allora taci e studiala, tagliò corto la donna. Anna inclinò il vasetto per avvicinarlo a sé e posare un bacio su uno dei piccoli fiori rosati. Poi ricominciò a studiare. Marilla, saltò su dopo qualche minuto, secondo te potrei trovare un'amica del cuore qui? Un'amica? In che senso? Un'amica del cuore, la mia migliore amica, hai presente? Una persona della mia età con cui andare d'accordo nel profondo, alla quale confidare i miei pensieri più intimi. Anche se non avrei mai pensato che potessero succedere, si sta realizzando uno dei miei sogni più belli, quindi magari anche questo può diventare realtà. Secondo te è possibile? Beh, qui vicino a Orchard Slope abita Diana Barry, che ha più o meno la tua età. È molto carina e potrebbe essere la tua compagna di giochi quando sarà di ritorno. Adesso è a Carmody, da una zia, però dovrai stare molto attenta a come ti comporti. La signora Barry è una donna molto esigente e non permetterebbe mai a Diana di giocare con una bambina che non sia più che ben educata e per bene. Anna guardò Marilla attraverso i fiori di melo con occhi pieni di interesse. Diana, com'è? Non hai i capelli rossi, vero? Oh, spero proprio di no, è già abbastanza brutto che li abbia io. Non potrei sopportarli nella mia amica del cuore. Diana è molto graziosa. Ha gli occhi e i capelli neri e due belle guance rose. È una brava bambina, è davvero in gamba, che è più importante dell'essere bella. Marilla amava le morali, quanto la duchessa del paese delle meraviglie, ed era fermamente convinta che ce ne doveva essere una in ogni osservazione fatta a un bambino da educare e crescere come si deve. Ma Anna non fece minimamente caso alla morale della favola e si occupò soltanto della deliziosa prospettiva che le davano quelle informazioni. Oh, come sono contenta che sia carina! A parte l'essere belli, cosa che nel mio caso è impossibile, avere un'amica del cuore graziosa è molto meglio. Quando stavo dalla signora Thomas in soggiorno, c'era una libreria con le antine di vetro, ma non conteneva libri. La signora Thomas ci teneva il servizio buono di porcellana e le conserve, se ne aveva qualche vasetto da parte. Una delle ante era rovinata, l'aveva rotta il signor Thomas una sera in cui era un tantino alticcio. L'altra, però, era intera. E io la usavo per fingere che il mio riflesso nel vetro fosse un'altra bambina che viveva dentro il mobile. Avevo deciso che si chiamava Katie Morris ed eravamo grandi amiche noi due. Le parlavo a lungo, soprattutto di domenica, e le raccontavo tutto di me. Katie era il conforto e la consolazione della mia vita. Facevamo finta che la libreria fosse magica e che soltanto conoscendo l'incantesimo giusto io avrei potuto aprire l'antina ed entrare nella stanza dove viveva Katie Morris, anziché infilarmi fra i ripiani carichi di piatti e conserve della signora Thomas. Allora Katie mi avrebbe presa per mano e mi avrebbe portata in un posto stupendo, pieno di fiori, sole e fate. E saremmo vissute lì insieme per sempre, felici e contente. Quando sono andata ad abitare con la signora Hammond, mi si è spezzato il cuore per il dolore di lasciare Katie Morris, e anche lei è stata malissimo, lo so, perché piangeva a calde lacrime quando mi ha salutata con un bacio attraverso l'antina di vetro. In casa della signora Hammond non c'erano librerie, però lungo il fiume, abbastanza vicino alla casa, c'era una piccola valle verdeggiante, lunga e stretta, dove viveva un'eco meravigliosa. Ripeteva ogni parola che si pronunciava, anche se non si parlava a voce alta. Così ho immaginato che lì ci fosse una bambina di nome Violetta. Eravamo molto amiche. E io le volevo bene quasi come a Katie Morris. Non proprio così tanto, ma quasi. La sera prima di andare all'orfanotrofio ho salutato Violetta e sapessi com'era triste, tristissimo il suo saluto quando mi è tornato indietro. Ormai mi ero talmente affezionata a lei che non ho avuto la forza di immaginarmi un'altra amica del cuore all'orfanotrofio, sempre che ci fosse la possibilità di immaginarsi qualcosa in quel posto. Per quanto mi riguarda, meglio che non ci fosse, dichiarò secca Marilla. Non approvo certe abitudini. Sembra quasi che tu ci creda alle creazioni della tua fantasia. Ti farà solo bene avere un'amica in carne e ossa e scacciare dalla tua mente tutte queste sciocchezze. Ma stai attenta a non farti sentire dalla signora Barry a parlare delle tue Katie Morris e delle tue violette se non vuoi farle credere che sei solo una chiacchierona bugiarda. Oh no, certo, non potrei mai parlare delle mie amiche del cuore con nessuno. I ricordi della nostra amicizia sono sacri per me, però mi faceva piacere che tu lo sapessi, ecco. Oh, guarda, quell'ape com'è grossa, è appena sboccata da un fiore di melo. Pensa che posto carino per viverci, un fiore di melo. Deve essere meraviglioso dormire lì, cullati dal vento. Se non fossi un essere umano, credo che mi piacerebbe essere un'ape e vivere sempre in mezzo ai fiori. Oh, ieri volevi essere un gabbiano, le fece notare Marilla, acida. Mi sembri un po' volubile. Ti ho detto di imparare quella preghiera e di star zitta. Ma a quanto pare ti è impossibile tacere se hai sotto mano qualcuno che possa ascoltarti. Quindi adesso sali in camera tua e la studi. Oh, ma io la so già quasi tutta, in pratica. Mi manca solo l'ultima riga. Non importa. Fai come ti ho detto. Sali in camera tua e finisci di impararla tutta a memoria. Poi resta su finché non ti chiamo ad aiutarmi per il tè. Almeno posso portare i suoi fiori di melo a farmi compagnia? Chiese Anna supplichevole. No. Non vorrà riempire la stanza di petali bianchi, a parte che, tanto per cominciare, avresti dovuto lasciarli sull'albero. E l'ho pensato anch'io, disse Anna. Un po' mi dispiaceva raccoglierli, perché sapevo che così avrei abbreviato la loro deliziosa vita. Io non vorrei certo essere colta se fossi un fiore di melo, però non ho resistito alla tentazione. Tu cosa fai quando ti capita? Anna, sei sorda, forse? Ti ho detto di andare in camera tua. La bambina sospirò. Salì nella mansarda, sul lato est della casa, e si sedette su una sedia vicino alla finestra. Ecco, adesso la preghiera la so tutta. Ho imparato l'ultima riga mentre salivo le scale. Perciò ora posso immaginarmi l'arredamento di questa camera in modo che mi resti sempre in mente. Il pavimento è coperto da un tappeto di velluto blu, punteggiato di rosa e rosa, e alle finestre le tende sono di seta rosa. Le pareti sono rivestite di tappezzeria di broccato color oro e argento. Tutti i mobili sono in mogano. Non ho mai visto niente che fosse fatto di mogano, ma basta il suono della parola per capire che è lussuoso. Questo è un divanetto coperto di favolosi cuscini di seta, rosa e blu, cremisi e oro, e io ci sto sdraiata sopra con grazia. Mi vedo riflessa in quello splendido specchio appeso alla parete. Certo che è grande, e io sono alta. Guardo che aria regale con quella gonna lunga, tutta di pizzo, bianco, con lo strascico e una croce di perle al collo e altre perle fra i capelli, che sono neri come la notte, mentre la pelle è avorio pallido e mi chiamo Lady Cordelia Fitzgerald. No, questo non riesco a farlo sembrare vero. Accennando qualche passo di danza, Anna si avvicinò al piccolo specchio e si guardò. Il suo faccino lentiginoso e i grandi occhi grigi e solenni ricambiarono lo sguardo. Tu sei solo Anna di Green Gables, disse seria, e io ti vedo proprio così, come sei, ogni volta che provo a immaginarmi di essere Lady Cordelia. Comunque è un milione di volte meglio essere Anna di Green Gables che un'Anna qualsiasi, no? Si protese in avanti. Baciò affettuosamente il proprio riflesso e tornò a mettersi davanti alla finestra aperta. Cara regina della neve, buon pomeriggio e buon pomeriggio a voi, care betulle che state in fondo alla valle. Buon pomeriggio, piccola casa grigia sulla collina. Chissà se Diana diventerà la mia migliore amica. Spero di sì. E se succederà io le vorrò bene con tutto il cuore, ma non dimenticherò assolutamente mai né Katie Morris né Violetta. Ci resterebbero tanto male e io non voglio ferire i sentimenti di nessuno, nemmeno quelli di una bambina che vive dietro il vetro di una libreria e dell'eco di una bambina. Quindi devo stare attenta a ricordarle e a mandare un bacio a ciascuna ogni giorno. Anna soffiò un paio di baci volanti dalla punta delle dita verso i fiori del ciliegio e poi, con il mento posato sulle mani, Si lasciò trasportare in un meraviglioso mare di sogni a occhi aperti. Capitolo 9. La signora Rachel Lind inorridisce. Anna era a Green Gables già da una quindicina di giorni quando la signora Lind andò a fare il suo giro di ispezione. A essere sinceri, quel ritardo non fu colpa sua. Un serio e inopportuno attacco di influenza aveva infatti costretto la brava donna a letto subito dopo la sua ultima visita a Green Gables. La signora Rachel Lind non si ammalava spesso e nutriva un certo disprezzo per le persone a cui capitava, ma l'influenza, sosteneva, era diversa da qualsiasi altra malattia sulla faccia della terra e poteva essere interpretata soltanto come una punizione della provvidenza. Appena il medico le diede il permesso di mettere il naso fuori di casa, la donna si precipitò a Green Gables, morendo dalla curiosità di vedere l'orfanella accolta da Matthew e Marilla, visto che su quella bambina in tutta Avonlea circolavano le storie e le supposizioni più strane. Anna si era goduta ogni attimo di quelle 2 settimane. Ormai era diventata amica di tutti gli alberi e i cespugli del posto. Aveva scoperto che alla fine del frutteto partiva un viottolo che correva attraverso una striscia boscosa e l'aveva esplorata. In tutte le sue bizzarre delizie di ruscelli e ponticelli, gruppi di abeti e archi formati dai rami dei ciliegi selvatici, angoli fitti di felci e sentieri laterali costeggiati da aceri e sorbi. Aveva fatto amicizia con la fonte giù per la piccola valle, quella meravigliosa sorgente dalle acque profonde, chiare e gelide, pavimentata da lastre di arenaria rossa e liscia, e bordata da grossi ciuffi di felce che somigliavano a palme. Al di là della sorgente un tronco faceva da ponte e permetteva di superare il ruscello. Proprio in quel tronco aveva permesso ai piedi ballerini di Anna di raggiungere la collina boscosa dall'altra parte. Fra i pini e gli abeti rossi, folti e fitti, c'era sempre una gradevole penombra. Gli unici fiori lì erano tappeti di delicate campanule rosa, i fiori più dolci e timidi dei boschi, e qualche pallido leggiadro fiore di borragine, che faceva pensare allo spirito dei boccioli dell'anno prima. I fili di seta delle ragnatele brillavano, argentei, fra gli alberi, e le gemme e i ciuffi d'aghi degli abeti sembravano impegnati a conversare amichevolmente fra loro. Tutte quelle estatiche esplorazioni avvenivano nel corso delle rare mezz'ore in cui Anna aveva il permesso di uscire a giocare, e ogni volta la bambina rintronava Matthew e Marilla di chiacchiere sulle proprie scoperte. Non che Matthew si lamentasse, a dire il vero, ascoltava sempre tutto con il sorriso muto e divertito, mentre Marilla le permetteva di cianciare solo finché non si entusiasmava troppo, poi tagliava corto seccamente, dicendole di tenere a freno la lingua. Anna era fuori nel frutteto quando arrivò la signora Linde. Stava gironzolando tranquilla nell'erba folta e tremula, inondata dal sole rosso del tramonto. Per questo quella brava donna ebbe un'ottima occasione per descrivere la propria malattia fino all'ultimo dettaglio, riferendo ogni dolore e ogni battito del cuore con un compiacimento così evidente da far pensare a Marilla che, a quanto pareva, anche una semplice influenza poteva dare una certa soddisfazione. Quando tutti i particolari furono esauriti, la signora Linda affrontò il vero motivo di quella visita. «Allora, Marilla, ho saputo che ci sono sorprendenti novità qui da voi.» «Non credo che lei possa essere più sorpresa di me», ribatté Marilla. «Sto ancora riprendendomi dalla sorpresa.» «Mi è così spiaciuto per quell'errore», osservò comprensiva la signora Linde. «Ma non potevate rimandarla indietro?» «Potevamo, certo, ma abbiamo deciso di no. A Matthew la bambina è piaciuta subito e devo dire che piace anche a me, anche se devo ammettere che ha i suoi difetti. La casa sembra già un posto diverso con lei. È una bambina molto sveglia.» Marilla si rese conto di essersi lasciata sfuggire più del dovuto perché lesse subito disapprovazione nello sguardo della signora Linde. «Certo che vi siete presi carico di una grossa responsabilità», osservò la donna seria. «Soprattutto non avendo esperienza di bambini, non saprete granché della piccola e del suo carattere e chissà come diventerà da grande un bambino di quelli. Ma non la voglio scoraggiare, Marilla, sia chiaro. Non sono scoraggiata.» fu la secca risposta di Marilla. Quando mi metto in mente di fare una cosa, io la faccio. Comunque, immagino che sia venuta per conoscere Anna. La chiamo. Anna arrivò subito, di corsa, il viso illuminato dal piacere delle scorribande nel frutteto. Ma, colta di sorpresa dall'inattesa presenza di una sconosciuta, si fermò confusa sulla porta. A prima vista era di certo una creatura bizzarra, con quel vestitino di flanella striminzito e corto che si era portata dall'orfanotrofio, sotto il quale le gambe magre sembravano troppo lunghe e sgraziate. Le lentiggini erano più abbondanti ed evidenti che mai, e il vento le aveva arruffato i capelli in una massa disordinata che non era mai apparsa tanto rossa come in quel momento. Beh, non ti hanno certo presa per il tuo bell'aspetto, signorina, poco ma sicuro. Fu il primo categorico commento di Rachel Lind. La signora Lind era una di quelle persone gradevoli e popolari che si vantano di dire sempre ciò che pensano, senza scrupoli né favoritismi. Marilla, ma è terribilmente magra e smunta questa bambina. Vieni qui, lasciati guardare, ordinò ad Anna. Santa pazienza, ma non si sono mai viste tante lentiggini e capelli color carota. Vieni qui da me, bambina, ho detto. Anna andò da lei, ma non esattamente come la signora Linde si sarebbe aspettata. Con un balzo attraversò la cucina e si fermò davanti alla donna, rossa di rabbia, le labbra frementi e la figuretta sottile che tremava da capo a piedi. Io la odio! Sbottò con voce soffocata, picchiando un piede sul pavimento. La odio, la odio, la odio! Ripeté, picchiando il piede con più forza ogni dichiarazione di ostilità. Come si permette di dire che sono magra e brutta? Come si permette di dire che sono piena di lentiggini o i capelli rossi? Lei è scortese, maleducata e insensibile, signora. Anna! Esclamò Marilla costernata. Ma la bambina continuò imperterrita a fronteggiare la signora Linde con la testa alta, gli occhi fiammeggianti, le mani strette a pugno e un'appassionata indignazione che esalava dal corpo e la circondava come un'aura. Come si permette di parlare di me in questo modo? Ripeté con veemenza. A lei piacerebbe che qualcuno lo facesse, a lei? Le piacerebbe sentirsi dire che è grassa, goffa e che con tutta probabilità in lei non c'è nemmeno un pizzico di immaginazione? E non mi importa niente di ferire i suoi sentimenti, anzi, spero proprio che sia così, perché lei ha ferito me peggio di quanto fosse mai riuscito a fare il marito alcolizzato della signora Thomas. E sappia che non la perdonerò mai per questo. Mai, mai, mai! E a ogni mai picchiò il piede con tutte le sue forze. Ma si è mai visto un caratteraccio del genere? Esclamò inorridita la signora Lind. Anna, va in camera tua e restaci finché non salgo, ordinò Marilla, ritrovando a fatica l'uso della parola. La bambina scoppiò a piangere e corse fuori, sbattendo la porta con tanta forza che le lattine sugli scaffali della veranda tintinnarono per solidarietà. Attraversò l'ingresso e volò su per le scale come una furia. Un altro colpo più soffocato comunicò al pian terreno che la porta della mansarda est era stata chiusa con altrettanta forza. Marilla, non glielo invidio proprio il compito di educare una così, commentò la signora Linde con una indescrivibile solennità. Marilla aprì la bocca, senza sapere se scusarsi o esprimere il proprio disappunto, ma ciò che disse alla fine fu una sorpresa perfino per lei, in quel momento e in seguito. Lei non avrebbe dovuto criticare l'aspetto della bambina, Rachel. Marilla Cuthbert non starà mica prendendo le parti di quella maleducata dopo il suo imperdonabile comportamento di poco fa? Sbottò indignata la signora Lind. No, rispose lentamente Marilla. Non sto cercando di scusarla. Anna si è comportata male e per questo le sarà fatta la ramanzina che merita. Però dobbiamo concederle delle attenuanti. Non le è mai stato insegnato come ci si deve comportare. E lei, Rachel, è stata troppo dura con lei. Marilla non poté evitare di calcare su quell'ultima osservazione, anche se di nuovo si sorprese per prima della sua reazione. La vicina di casa si alzò di scatto con aria offesa. Bene. A quanto pare, d'ora in poi dovrò stare molto attenta a ciò che dico, Marilla, dal momento che in questa casa i sentimenti di una trovatella raccattata chissà dove devono essere considerati prima di ogni altra cosa. No, no, non mi sono offesa, non si preoccupi. Sono troppo dispiaciuta per lei e per suo fratello, e non c'è spazio per la rabbia nel mio cuore. Avrete i vostri bei problemi con quella bambina, ma se vuole un consiglio, anche se credo che non lo voglia, benché io abbia cresciuto 10 figli e ne abbia seppelliti due, se vuole un consiglio, dicevo, accompagni la ramanzina di cui parlava con una sonora frustata. A mio parere è questo l'unico linguaggio efficace coi bambini così. Il carattere va a braccetto con quei capelli che si ritrova, garantito. Comunque, buonasera, Marilla. Spero che verrà a trovarmi con la stessa frequenza di prima, ma non si aspetti che sia io a ripassare di qui in tempi brevi, se corro il rischio di essere aggredita e insultata in questo modo. Non mi era mai capitato niente di simile. Detto questo, la signora Rachel Lind se ne andò sussiegosa e altera, per quanto potesse farlo una donna grassa come lei, che quando camminava sembrava una papera. Marilla invece salì in mansarda con aria cupa. Mentre percorreva i gradini, si domandò inquieta cosa fosse meglio fare. Era davvero sgomenta per la scena di poco prima. Peccato che Anna avesse mostrato quella sua indole ribelle proprio davanti alla signora Rachel Lind, fra tutti. Poi, di colpo, la donna si rese conto con imbarazzo e senso di colpa di provare più umiliazione per quel lato della questione che dispiacere per la scoperta di un difetto così grave nell'atteggiamento della bambina. Ma come era meglio punirla? L'amabile suggerimento di una sonora frustata, trattamento sulla cui efficacia tutti i figli della signora Linda avrebbero potuto testimoniare, non le piaceva affatto. Non sarebbe mai riuscita a frustare un bambino, lo sapeva. No, doveva trovare un altro genere di punizione perché Anna si rendesse conto della gravità di ciò che aveva fatto. Marilla la trovò buttata pancia in giù sul letto, che piangeva calde lacrime, ignorando del tutto gli scarponcini sporchi di terra sul copriletto pulito. Anna, mormorò senza asprezza. Nessuna risposta. Anna, ripeté con più severità, scendi da quel letto all'istante e ascolta quello che ho da dirti. La bambina si girò su se stessa e scivolò giù dal letto per andare a sedersi impettita sulla sedia lì accanto. Aveva il viso gonfio e rigato dalle lacrime e teneva gli occhi caparbiamente fissi sul pavimento. Bel modo di comportarsi, signorina. Non ti vergogni? Quella non aveva nessun diritto di dire che sono brutte e che ho i capelli rossi, replicò la bambina insolente. Tu non avevi nessun diritto di infuriarti in quel modo e di rivolgerti a un ospite con quel tono, Anna. Mi sono vergognata di te. Mi sono proprio vergognata. Volevo che fossi gentile con la signora Linda, invece mi hai fatto fare una brutta figura. E non capisco assolutamente perché tu ti sia arrabbiata tanto quando la signora Linda ha detto che hai i capelli rossi e che sei bruttina. Lo dici spesso anche tu, in fondo. Sì, ma tra il dire una cosa e sentire altre persone che la dicono c'è una differenza enorme, gemette Anna. Puoi anche sapere che una cosa è in un certo modo, ma non puoi fare a meno di augurarti che gli altri non la pensino così. Di sicuro adesso sei convinta che io abbia un caratteraccio, ma stavolta non ho potuto evitarlo. Ecco, quando quella ha detto ciò che ha detto, ho sentito qualcosa che mi si gonfiava dentro e mi soffocava. Dovevo per forza buttarla fuori. Devo dire che hai dato il peggio di te. Adesso la signora Linde avrà una bella storia da raccontare su di te e la riferirà a tutti, garantito. Hai fatto proprio male a comportarti così, Anna. Ma prova a immaginare come ti sentiresti tu se qualcuno ti dicesse in faccia che sei pelle e ossa, eppure brutta, insisté la bambina con gli occhi pieni di lacrime. E di colpo a Marilla tornò in mente un vecchio ricordo. Era molto piccola quando aveva sentito una zia dire di lei a un'altra: peccato che sia un esserino così scuro e insignificante. Anche lei ci aveva messo un bel po' a mandar giù quella frase, in effetti. Senti, Anna. Non dico che la signora Linde abbia avuto ragione a dire ciò che ti ha detto, riprese con più dolcezza. Anche Rachel a volte parla vanvera, ma questa non è una giustificazione per il tuo comportamento. Ti stavi rivolgendo a una persona che non conoscevi, più anziana di te, e una mia ospite. Tre ottimi motivi per trattarla con rispetto. Invece sei stata sgarbata e sfacciata, quindi Marilla trovò finalmente l'ispirazione per una punizione adeguata. Andrai da lei a dirle che sei molto dispiaciuta per ciò che è successo e a chiederle scusa. No, non lo farò mai, rispose Anna accigliata e decisa. Puoi punirmi quanto vuoi, Marilla. Puoi chiudermi in una segreta buia e umida, piena di serpenti e rospi, puoi tenermi a pane e acqua. Non mi lamenterò, ma non posso chiedere scusa alla signora Lind. Qui Non abbiamo l'abitudine di chiudere la gente in segrete buie e umide, tagliò corto Marilla. Anche perché ad Avon Lee sono piuttosto rare. Ma tu devi scusarti con la signora Linde e resterai in camera tua finché non verrai a dirmi che lo farai. Allora dovrò stare qui per sempre, concluse Anna afflitta. Perché non posso andare dalla signorina Linde a dirle che mi spiace di averle detto ciò che ho detto. Come potrei? Non mi dispiace nemmeno un po'. Mi dispiace di averti contrariata, ma sono contenta di averle risposto a quel modo. È stata una gran soddisfazione. Non posso dire che sono dispiaciuta se non è vero, no? Non riesco neppure a immaginarmi di esserlo, figurati. Magari domani mattina la tua immaginazione funzionerà meglio, disse Marilla alzandosi per andarsene. Hai tutta la notte per riflettere sulla tua condotta e giungere a più miti consigli. Avevi promesso di provare a fare la brava se ti avessimo tenuta qui a Green Gables, ma non è questa l'impressione che hai dato stasera. Lasciata la bambina ad arrovellarsi su ciò che era accaduto, Marilla scese in cucina con la mente inquieta e l'animo in tempesta. Era arrabbiata con se stessa almeno quanto lo era con Anna, perché ogni volta che ripensava all'espressione allibita della signora Rachel Lynde, le tremavano le labbra per lo spasso e le scappava da ridere.